Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, le peripezie di Silvio Berlusconi mettono in evidenza la potenza del meccanismo espiatorio nella strutturazione dell'agire umano, e in particolar modo di quello politico. Ma andiamo con ordine. Silvio B. è al massimo della popolarità. Si sta per proporre come leader di tutti gli italiani, in una situazione comunque di crisi e di conflittualità serpeggiante. Poi, all'improvviso, l'armonia si incrina. Compaiono insinuazioni, vere o false non importa, sentenze di colpevolezza, e il trionfatore si ritrova improvvisamente potenziale vittima. Questo in parallelo fa emergere ed esplodere anche tutte le altre contraddizioni che vanno ad aumentare la spinta persecutoria. Nel conflitto che lacera la comunità, i contendenti si sfidano con argomenti reciproci che alla fine li rendono perfettamente simmetrici. Si pensi al tono delle accuse Berlusconi, Associazione Nazionale Magistrati, assolutamente identiche come contenuto e struttura. Con la vicenda Noemi arriviamo ad allusioni che superano Edipo e ci si dimentica che fino alla risoluzione della tragedia Edipo difende la sua causa con gli stessi argomenti dei suoi persecutori. Ora, che cosa può ricomporre l'armonia? Esattamente la punizione di una vittima che tutti ritengono responsabile dei disordini. E chi meglio di Berlusconi può incarnare questo ruolo? I denigratori di Silvio si fanno beffe del suo alternare vittimismo a eccessi di sbruffoneria, ma è esattamente il destino di tutti i capri espiatori. E non si può aspirare al ruolo di unto del Signore senza inevitabilmente essere pronti ad accollarsi il corollario di vittima sacrificale. È poi esattamente ciò di cui si lamenta Giobbe. Non tanto della misteriosa imperscrutabilità del male, quanto dell'implacabile persecuzione del prossimo che gli era amico, e perfino servo, quando ancora era il primus della comunità e nell'avversità gli si rivolta contro. Il meccanismo espiatorio è quello che fonda ogni religione primitiva, piccola dimostrazione politica. Craxi finì politicamente con la lapidazione, ma la sua espulsione anche fisica dall'Italia non portò affatto alla riconciliazione civile. Proprio per questa inefficacia strutturale, i regimi totalitari degni di questo nome, pensiamo allo stalinismo, non solo mettevano a morte i loro nemici, ma esigevano dalle vittime stesse l'ammissione di colpevolezza. Per funzionare, il meccanismo vittimario ha bisogno dell'unanimità inconsapevole, che non esistendo più, va in qualche modo ricreata. Quando finirà tutto questo? Semplice. Il 7 giugno. Le elezioni sanciranno l'esecuzione o resurrezione simbolica del premier. In caso di risultato deludente, la persecuzione acquisterà vigore. Viceversa, se Silvio ne uscirà elettoralmente incolume, tutto si assopirà. Luca. L'episodio di Berlusconi Noemi sta generando la sfilza di interventi più beceri e bigotti che la storia ricordi. In Italia, oltre il 50% dei matrimoni fallisce alla svelta. La maggior parte delle coppie tira avanti per inerzia. Alcune affinità elettive conducono una vita appagante e felice. Rarissimamente si ha il piacere di vedere una gran bella donna sposata con l'operaio. Si innamorano spesso di miliardari e si creano rapporti che sono decisamente minati sul nascere. Come è noto anche ai più piccoli, il miliardario ha uno spiccato debole per l'altro sesso. Dunque, o gli italiani vivono nel limbo, o io sono un UFO che si immaginava che la bella vita fosse sinonimo di soldi, potere e donne. Ero convintissimo di cadere in un luogo comune. Per di più, si è cominciato a sostenere che i dipendenti del Cavaliere non hanno più diritto di replica per la palese inferiorità genetica che li contraddistingue. Ci si dimentica però di fare un semplice ragionamento. Se Berlusconi è diventato così ricco con le sue aziende, deve essere anche stato capace di circondarsi di validi collaboratori che, a loro volta, si avvalgono di bravi lavoratori. Dulcis in fundo, ho scoperto da Dario Franceschini che i figli di Berlusconi sono cresciuti così male, poverelli, che l'unica alternativa era quella di dedicarsi ai peggior vizi e condurre vite sregolate, come del resto è palese per tutti. Vivendo in terra di comunisti, dopo lunghe discussioni politiche, il disagio maggiore nasce dal constatare che l'invidia serpeggia sempre e tende a volte a sfociare nella maldicenza gratuita. È la cosa che non ho mai sopportato dei tanti miei amici di sinistra. Speriamo arrivino presto le elezioni. Mario, Modena. Secondo me il premier non è da associare a situazioni di frequentazioni di tipo sessuale. Più semplicemente, da ex magnate delle TV, quelle di Drive-In, delle veline, eccetera, è naturalmente una persona che da sempre è attorniata di ragazze aspiranti soubrette. Una sorta di deformazione professionale del casting. Ma le ragazzine che sono attratte dal ricco potente uomo che potrebbe aiutarli in questo ingresso nel mondo dello spettacolo non fanno altro che cercare aiutini. Nulla di più facile che questa Noemi, così come le altre ragazze, aspirasse alla carriera in TV e non si sia fatta scappare l'occasione. Il tutto in modalità non sessuale. Comunque, la questione riguardante questa voglia di molte ragazze giovani di cercare in uomini ricchi e più anziani di loro l'aiutino alla carriera è squallido. Ecco cosa non mi piace in questa faccenda. Non l'aspetto eventualmente sessuale, bensì la deformazione professionale del premier. Che sarà stato un ottimo padre, che non avrà mai avuto rapporti piccanti con ragazzine, ma comunque un uomo che anche a 73 anni, anche durante la carica di premier, si occupa ancora di cose tipo provini, casting, aiuti a ragazze in cerca di carriera, aspiranti attrici. Io non sarei contento se mia figlia, che oggi ha solo 5 anni, un domani conoscesse un anziano ricco e potente e lo considerasse come una bellissima occasione da sfruttare. Io non aiuterei, credo, una ragazzina a intraprendere una carriera con questo genere di mega raccomandazioni. Ma forse quando mia figlia ha 16 anni, con il book di foto molto eloquenti, conoscerà un ricco anziano potente, forse allora farò i miei conti e magari anch'io chiuderò un occhio. Ma oggi mi sento dire che ad un anziano ricco ex magnate delle TV, che può raccomandare dall'altissimo le ragazzine per la carriera e introdurre nel magico mondo dei VIP, beh, io non affiderei mia figlia a un uomo così. Parere mio. Franceschini fa opposizione grossolana, sapendo che non sarà lui il prossimo leader. Pazienza. Luca, Milano. Caro direttore, le statistiche dicono che l'Italia ha in Europa il minor numero di laureati e, nello stesso tempo, il maggior numero di laureati disoccupati o precari. Come genitore di un laureato che ha lavorato saltuariamente soltanto come precario e adesso ha perduto anche il lavoro, vorrei fare una riflessione, sicuramente condivisa da altri. Ogni genitore ha sperato e spera per i propri figli un futuro migliore del proprio e, forse per questo, pensa che l'istruzione e la cultura possano dare una risposta a queste attese. E così si impegna a seguire e incoraggiare lo studio dei figli, cercando possibilmente di assecondare le loro vocazioni. Spesso per la famiglia, sostenere questo impegno di non breve durata comporta rinunce e sacrifici. Ma tutto ciò non spaventa i genitori, perché il futuro dei figli diventa spesso la ragione stessa della loro vita. È terribile scoprire poi che tanti sacrifici sembrano non essere serviti a nulla. Davanti a questa amara realtà, inevitabilmente, si avverte quasi un senso di colpa, poiché di fatto si è contribuito ad alimentare un'illusione. Sì, qui in Italia il laureato trova maggiore difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto quando vanta ulteriore specializzazione. E quando anche fosse disponibile a ricoprire ruoli inferiori alla propria preparazione, viene guardato con sospetto e spesso respinto perché in tale ruolo, così gli è stato detto, si troverebbe ben presto demotivato. Se questo è l'orizzonte che si apre, scontato e sconsolante è l'avvenire. Una società che non è capace di dare speranza, futuro alle giovani generazioni più preparate, è condannata inesorabilmente al suo declino. Paolo. Caro Paolo, il futuro dei giovani dovrebbe essere uno dei primi e più importanti interessi per una società che voglia essere insieme equa e moderna. Le statistiche ci dicono che attualmente i 3/4 dei laureati trovano entro un anno un posto di lavoro, ma si tratta spesso di occupazione a tempo determinato e con un basso livello di reddito. L'università italiana corrisponde solo in parte alle esigenze del sistema economico e peraltro l'Italia è agli ultimi posti in Europa per le risorse destinate all'istruzione universitaria. Siamo allo 0,8% del prodotto interno lordo, che si confronta con l'1,16% della Germania, l'1,2% della Francia, mentre i paesi scandinavi superano quota 2%. È anche vero che la domanda del sistema delle imprese dei laureati è inferiore a quella degli altri paesi. Secondo l'ultimo rapporto dell'Union Camere, le assunzioni di laureati previsti si è ridotto negli ultimi 3 anni dal 6,2% al 6,5%. Ora, la crisi in atto a livello globale rende ancora più difficile il problema e la speranza è che, come dicono molti, questa crisi diventi un'opportunità, perché si riscopre un'economia non solo della quantità, ma soprattutto della qualità, perché possono essere valorizzate tutte le risorse umane che l'università riesce a formare e valorizzare. Dobbiamo tutti, caro Paolo, cercare di contrastare un declino che non è per nulla ineluttabile. il nostro stato sociale è ancora fortemente sbilanciato verso i padri e i nonni, e questo toglie risorse ai figli e ai nipoti. Ma bisognerebbe dire chiaramente che in questa situazione i diritti rischiano di trasformarsi in privilegi e che mantenere di fatto l'età pensionabile più bassa d'Europa ha un costo sociale che pagano inevitabilmente soprattutto i giovani. L'Italia è un paese che non è capace di affrontare le morti sul lavoro. Un paese dove si sciopera a morti già avvenute, segnalando così la paura di farlo prima. Un paese dove diventa sempre più facile fare di tutta l'erba un fascio, dove la gente perde il lavoro precario e dà la colpa alle aziende. Ma chi lo ha introdotto il precariato? Ora, alla lunga fila dei vecchi precari si aggiungono migliaia di nuovi precari, e sono quei proletari che 40 o 20 anni fa si sono stufati di lavorare sodo per gli altri. Cara sinistra, continuando a darci delle pacche sulle spalle fra di noi, daremo ancora una volta ragione al Presidente del Consiglio. Dobbiamo cominciare a togliere gli scheletri dagli armadi e bruciarli questi armadi, facendo in modo che il popolo abbia una classe politica chiara e trasparente. Questa, a parer mio, è l'unica risposta che la gente sentirebbe veramente. La fiamma Silvio si spegnerà da sola. L'importante è ridurre il danno e investire per il futuro. Mettiamoci in discussione perché i sondaggi danno ragione a chi diceva che gli elettori di sinistra sono più acculturati che quelli di destra. Infatti, ad ogni errore, la sinistra perde consensi, la destra li guadagna. Ricominciamo a fare una politica per il paese. Le problematiche sono tante, le soluzioni fino ad ora sono state pochissime. La gente deve saperlo. Chi vuole sapere di Noemi si comprerà i giornali adatti. A noi interessa il futuro dei nostri figli, il futuro delle nostre aziende. Cara sinistra, anche questa volta ti darò il mio voto, perché a parer mio è il meno peggio. Ma spero ascolterai le tante voci di rinnovamento che ti arrivano, perché il tempo e la pazienza non sono eterni. Rudy. Mia moglie è cittadina brasiliana. Quando ha ricevuto la cittadinanza italiana, ha dovuto rinunciare a un cognome. Adesso in Italia ha solo un cognome, mentre in Brasile due. Assurdo. Le mie figlie, essendo nate in Italia, hanno solo un cognome, il mio. Qui è normale, ma in Brasile avere solo un cognome significa non essere stati riconosciuti dal padre. Infatti, quando andiamo là e ci vengono chiesti i dati anagrafici, poiché abbiamo un solo cognome, veniamo un po' compatiti. Marco da Ravenna. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.